Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Lunedì 18 ottobre, buongiorno e bentornati di nuovo a tutti i nostri teleradio ascoltatori su Liberi Dentro Eduradio e TV, il programma che come sapete fa da ponte tra carcere e città. Siamo sempre in onda su Lepida TV canale 118 e Radio Città Fujiko alle ore 9 del mattino canale 103.1 e Teletricolore canale 636 dalle ore 17 alle 18 e nel weekend in orari diversi che vi diremo nel fine settimana. Ma do il buongiorno anche ad Antonella Cortese, sempre qui con me. Ciao Antonella. Ciao Caterina, salve, buongiorno a tutti. Iniziamo questa settimana con una intervista molto interessante a Ornella Favero, che è la presidentessa di Volontariato e Giustizia e anche la direttrice di Ristretti Orizzonti. Volontariato in carcere, sostanzialmente siamo considerati buoni ma incompetenti. L'intervista di Luca Cereda su vita.it. Questo perché la Favero, in questa lunghissima intervista anche molto schietta su quello che sta un po' accadendo dopo la riforma della giustizia, ha detto che sostanzialmente le istituzioni non riconoscono la formazione e le competenze del volontariato che opera all'interno del carcere. E questo è inaccettabile, secondo lei. Ma guardiamo per bene i numeri. Prima della pandemia, i volontari negli istituti di pena italiani erano compresi tra le 10.000 e 15.000 unità, persone formate per entrare negli istituti di pena autorizzate dal Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria. Durante il Covid il loro ruolo è risultato ancora di più significativo, e questo perché le norme che li ha tenuti fuori per mesi dalle carceri ha fatto emergere quanto siano importanti le mansioni delegate a loro e fondamentali anche per mandare avanti un istituto di pena. E tuttavia, nonostante ciò, al volontariato viene riconosciuta sì la bontà etica delle persone che vi entrano e operano, ma non la competenza. E questa è la lamentela sostanzialmente di Ornella Favero. Che io in realtà, Caterina, comprendo pure, perché a volte sembra che il sistema carcere sia un po' come il sistema dei no. La prima risposta è quella. È vero, anche qui mi riallaccio alle affermazioni della Favero, che si è detta colpita dall'assenza del volontariato e di tutto il terzo settore dalla nuova commissione per l'innovazione del sistema penitenziario, istituita di recente dalla ministra della giustizia Marta Cartabia, tanto più oggi che il codice del terzo settore parla abbastanza chiaro proprio in materie e mette sullo stesso piano la pubblica amministrazione e il terzo settore stesso, pur nella diversità dei ruoli, ovviamente. Cerchiamo di capire il perché di questo stupore della Favero e non solo sul ruolo del volontariato. Dovete sapere che l'operato del volontariato penitenziario assume, sulla base delle esigenze, delle disponibilità numeriche di persone formate e del contesto carcerario, con diverse forme anche di assistenza, dal sostegno morale e materiale alla persona detenuta a quello alle famiglie. Inoltre, troppo poco spesso i volontari sono le uniche figure che accompagnano il detenuto nel suo percorso rieducativo, previsto però all'articolo 27 della Costituzione, rappresentando quindi un aiuto per il reinserimento concreto, sociale e lavorativo e anche un ponte di collegamento fra esterno e interno. Caterina, hai toccato proprio, hai detto una parola, ponte. È un poco come il ponte che cerchiamo di fare noi, al quale partecipano attivamente i volontari, e infatti la trasmissione di Radio TV è proprio retta anche dai volontari stessi, che sono fondamentali per permettere questa comunicazione tra interno e esterno. È vero, infatti, come afferma la stessa Favero, i volontari da un lato comunicano alla società le criticità di un carcere che è sempre meno umano, sempre meno dal volto umano. E di queste criticità nell'ultimo anno ovviamente vi è stato il Covid, ma non è l'unico problema, anzi ce ne sono altri. Per esempio il fatto che quello del sistema carcere, come dicevi tu, si dice sempre no a qualsiasi richiesta, progetto e idea, e poi solo dopo la si valuta. Mentre la Costituzione insegna che scontare una pena che sia dignitosa e far sì che tutti i bisogni della popolazione detenuta siano ascoltati è invece un vero e proprio diritto ed è un dovere che la pena non sia punizione ma rieducazione. Senti, diciamo formazione, competenze di cui parlavamo prima, sono solo cose buone, come si intendono solo in questo modo? Oggi, come dice anche la Favero, c'è una parte consistente del volontariato in carcere che ha competenze molto qualificate, competenze che rafforzano e permettono di anche aumentare la qualità delle proposte di attività nelle carceri. Si potrebbero fare numerosissimi esempi. Lei, per esempio, fa quello di A Scuola di Libertà, che è un progetto di volontariato e giustizia dove sono coinvolti centinaia di studenti e insegnanti. Questo significa che il volontariato nell'ambito della giustizia è tra i pochi soggetti, se non l'unico, in grado di avere idee avanzate, proposte innovative di formazione, di creare iniziative strutturali e non progetti a spot all'interno delle carceri. Per concludere, ecco, è proprio per questo motivo che non c'è solo la bontà, ma c'è anche la competenza e la formazione, ed ecco perché stona la loro esclusione dalla Commissione per l'innovazione del sistema penitenziario. E per rimanere in argomento, proprio per la preziosità dei volontari all'interno dei carceri, dedico loro la canzone Diamante di Zucchero. A tra poco. Rieccovi, bentornati dopo la pausa musicale, sempre su Liberi Dentro di Radio TV, il vostro programma che fa da ponte tra carcere e città. Antonella, siamo con te, la nostra finestra sul mondo si apre sull'Africa, in particolare parliamo di salute, aggiornaci sui dati della malaria in Africa. Ciao Caterina, rieccoci di nuovo e in realtà vi do una buona notizia che avevamo anticipato in una precedente puntata, perché avevamo già parlato di malaria e di un vaccino che era ancora in via di sperimentazione. C'è da dire che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, per fortuna, cioè l'OMS, ha raccomandato l'uso diffuso del primo vaccino contro la malaria nei bambini dell'Africa subsahariana in particolare, ma anche di altre regioni dove la trasmissione è alta o moderata. La decisione dell'organizzazione, che può portare ad una svolta nella lotta alla malattia, che poi sapete è trasmessa dalla famosa zanzara anofela infetta e che purtroppo è anche endemica in diverse aree del continente e che uccide migliaia di persone nel mondo ogni anno. Arriva finalmente questo vaccino dopo un'ampia sperimentazione che pensa ha coinvolto più di 800.000 bambini dal 2019 residenti in Ghana, Kenya e Malawi. È un'ottima notizia, ma descrivici anche quali sono i sintomi di questa malattia. Sì, insomma, i sintomi sono febbre, spesso molto molto alta, mal di testa, vomito, diarrea, sudorazioni e anche brividi scuotenti. E questa malattia, come vi dicevo, è trasmessa dalle zanzare anofele femmine, tra l'altro, e i primi sintomi sono appunto febbre, spossatezza, cefalee, dolori muscolari anche intensi. L'evolversi della malattia può portare alla morte, questa è una cosa che è raccapricciante, e anche se scampano alla malattia, molti bambini si portano dietro una profonda e fortissima anemia, che può influire molto sullo sviluppo fisico e mentale dei bambini. Oltre a fiaccare l'economia di questi paesi che diminuiscono proprio nella produttività, proprio perché mancano le forze lavorative, provocando appunto elevati costi sanitari e anche aumentando la povertà. Come ci annuncia il direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, è un momento storico e infatti il tanto atteso vaccino antimalarico per i bambini è una svolta importantissima per la salute di tutto, per il controllo della malaria. Io voglio fare però una precisazione, Caterina, perché quando pensiamo ai vaccini, e lo sappiamo sulla nostra pelle, pensiamo sempre che il vaccino sia una cosa che ci esenta completamente dalla malattia, al 100%. Questa cosa in realtà non esiste e purtroppo non esiste neanche per la malaria. Riduce tantissimo l'incidenza e le ripercussioni della malattia, ma non, diciamo, la elimina totalmente, non la eradica, almeno non adesso. Secondo l'OMS, il vaccino che è stato prodotto da una multinazionale farmaceutica britannica dovrebbe essere distribuito in tutta l'Africa subsahariana e dopo il successo del programma pilota di immunizzazione di cui in effetti abbiamo già parlato in passato. Pensa che la malaria fa registrare circa 230 milioni di casi e 400.000 decessi all'anno. Solo nel 2019 sono morti più di 260.000 bambini soltanto in Africa, proprio in quelle aree lì di cui parlavo prima. Sono cifre che fanno spavento e soprattutto, ritornando all'argomento vaccino di cui parlavi prima, ormai è entrato a far parte delle nostre vite proprio da quando, da 2 anni ormai c'è stato il Covid, c'è ancora il Covid. E, però quello contro la malaria è un vaccino efficace? Sì, è un vaccino efficace. I trial del 2015 avevano dimostrato che il vaccino poteva prevenire circa 4 casi su 10, 3 casi su 10 in forma grave e portare a una riduzione di un terzo del numero di bambini bisognosi di trasfusione di sangue, perché ti dicevo porta anche una grande anemia. Tuttavia c'erano dubbi sulla sua efficacia perché in realtà richiede 4 dosi, diciamo non è un vaccino tra virgolette comodo, le prime 3 da somministrare a un mese di distanza quando il bambino ha 5, 6, 7 mesi d'età con un richiamo finale a 18 mesi circa. Però i risultati del progetto pilota sono stati, oltre ad essere stati molto discussi, però hanno dato dei buoni risultati e hanno dimostrato che il vaccino è sicuro e porta comunque a una riduzione di più del 30% della malattia grave. Inoltre ha raggiunto più di 2/3 dei bambini che non hanno una zanzariera sotto la quale dormire e quindi non vi è nessun altro impatto negativo neanche sugli altri vaccini di routine. Però pensa un po', Caterina, questa malattia potrebbe essere ridotta anche semplicemente utilizzando una zanzariera. Vabbè, queste sono cose che purtroppo ci capitano e rimaniamo in Africa e ascoltiamo Rokia Traoré con la canzone Sabali. Ascoltiamola insieme. Toma, son. tutti, siamo qui nella casa circondariale di Bologna e oggi siamo insieme ad Antonio Molinaro per l'intervista per la Pillola insieme ad Asso Città di Bologna per Liberi Dentro Durati. Sì, parleremo con appunto l'ispettore Antonio Molinaro del suo lavoro, del suo ruolo all'interno della casa circondariale di Bologna. Sarà un'intervista molto ricca che vi accompagnerà per diverse pillole per l'appunto costruite da Asso Città di Bologna. Ascoltatela, è molto interessante. Via con la pillola. Ma secondo lei quali attitudini anche umanamente sono richieste per approcciarsi a questo lavoro? Allora, per fare questo lavoro sicuramente, allora innanzitutto è un lavoro molto difficile e complicato. Non penso che tutti siano adatti a questo lavoro, perché è un lavoro a volte che comporta appunto delle situazioni molto complicate da dover risolvere e quindi anche a livello psicologico magari delle persone che non sono adatte a questo tipo di lavoro se non hanno anche sia fermezza ma anche molto umanità, secondo me, e pazienza anche moltissima oltre appunto la preparazione giuridica, però bisogna avere delle caratteristiche, diciamo, caratteriali e psicologiche, diciamo, che non sono richieste per tutti i tipi di lavoro, insomma, quindi delle cose un po' più particolari e più proiettati a lavorare, perché si lavora principalmente con le persone. Con le persone e quindi, ma anche con la maggior parte delle persone hanno molti problemi e quindi si viene a contatto con un mondo anche di sofferenza e quindi magari molti non hanno anche quel carattere forte da poter, diciamo, sopportare, diciamo, questo tipo di lavoro. Infatti anche nell'ambito, non solo a volte si parla di suicidi di detenuti, ma anche nella polizia penitenziaria purtroppo ci sono dei casi di suicidio, insomma, quindi insomma, non è un lavoro sicuramente adatto a tutti, però se poi uno lo fa con passione, con piacere, può essere un lavoro bellissimo a mio giudizio. E proprio parlando di rapporti umani, che rapporto si instaura solitamente con le persone detenute? Cioè, ci sono alcuni bisogni che riuscite facilmente a soddisfare? E se sì, quali modalità utilizzate solitamente? Allora, per quanto riguarda i detenuti, il rapporto con i detenuti, diciamo che già noi nello stesso ordinamento penitenziario ci dice come dobbiamo comportarci. Innanzitutto dobbiamo cercare di instaurare un rapporto più professionale possibile, essere anche imparziali, e cercare comunque, ma c'è anche richiesto, di non fare diciamo delle discriminazioni in ordine magari, che ne so, alla nazionalità, al sesso, alla razza. Lo stesso ordinamento penitenziario poi ci dice di chiamare i detenuti per nome, quindi e quando ci rivolgiamo ai detenuti di usare il lei, quindi c'è proprio espresso nella legge dell'ordinamento penitenziario. Quindi diciamo che sicuramente non va usato un rapporto confidenziale ed amicale, anche perché comunque poi altrimenti non riusciremmo a fare il nostro lavoro in maniera, diciamo, nella maniera più corretta, ecco. Quindi, però sicuramente molte volte è vero, cioè, non bisogna essere dei robot freddi, insomma, anche perché molte volte ci troviamo a dare anche delle comunicazioni importanti, che ne so, dobbiamo comunicare che è morto un loro familiare e quindi o altre situazioni, diciamo, analoghe. O quando si verificano delle situazioni di atti autolesionistici, insomma, bisogna cercare comunque di avere un approccio anche molto umano e poi dipende appunto saper capire le varie situazioni e i vari momenti e quindi cambiare in base, diciamo, alle situazioni, ecco. Ci fermiamo per ascoltare un po' di musica, ci vediamo dopo. Oh. send home me fast this magic spell you cast. This is La Vie. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see La Vie. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be La Vie. Speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be La Vie. Continuiamo ora l'intervista al dottor Molinaro. Ritornando alla pandemia, è stato un anno e mezzo molto lungo e le chiedo, lei da ispettore di polizia penitenziaria, come ha vissuto questo anno, difficilissimo immagino qui dentro, e quali sono state le difficoltà maggiori e quanto è cambiato anche il suo lavoro a causa delle restrizioni da Covid. Non è stato facilissimo, insomma, lavorare in un ambiente chiuso e pieno anche di molte persone, sovrappopolato anche. Però diciamo che c'è stato molto impegno da parte di tutti noi anche, della polizia penitenziaria, ma anche di tutti gli altri che lavorano in carcere, a cercare appunto di seguire tutte le regole e che comunque i protocolli sanitari che sono stati fatti anche all'interno del carcere per evitare appunto la diffusione della malattia sia tra il personale, diciamo, che ci lavora nel carcere, ma anche tra gli stessi detenuti. Spesso, soprattutto all'inizio, non è stato facile, in quanto anche molti detenuti, diciamo, tipo non utilizzavano nemmeno la mascherina, si rifiutavano di utilizzarlo, oppure nelle sezioni era anche molto difficile evitare, diciamo, i contatti umani. E poi soprattutto è stato molto complicato quando bisognava fare l'isolamento di persone che poi magari veniva scoperto che erano positive al Covid-19, quindi avendo pochi spazi e fare anche l'isolamento non è stato semplicissimo. In più a complicarci le cose è stato il fatto che quasi tutte le attività, le poche attività che ci sono state sospese, diciamo, e di conseguenza ci siamo trovati che molte persone, tra cui il mondo del volontariato, che per me è di vitale importanza per il carcere, perché ci dà una grande mano, un grande aiuto per risolvere molti problemi, e quindi è rimasto fuori e allora siamo rimasti da soli a gestire, insomma, tutte queste situazioni che sicuramente non è stato facilissimo, perché comunque è stata sospesa anche la scuola, le altre attività, anche le attività lavorative, se non noi ci sono stati solo i lavori, diciamo, tipici dell'istituto penitenziario, quali le pulizie, insomma, i lavori domestici, diciamo, dell'istituto, però tutte le altre attività, c'era anche un'azienda metalmeccanica all'interno dell'istituto e tutte le altre attività sono state sospese, quindi, diciamo, sicuramente anche per i detenuti che già, diciamo, espletano poche attività, poi quel poco di attività di offerte sono anche chiuse, insomma, non è stato semplicissimo. E avete appena ascoltato l'ispettore Antonio Molinaro della Casa Circondariale Rocco D'Amato di Bologna. Ci saranno altre pillole a seguire a questa, perché è stata per l'appunto un'intervista molto ricca. Se avete dubbi, domande, scriveteci in redazione Liberi Dentro, @gmail.com, oppure Chiesa Santissima Annunziata, via Salomone 2, 40136 Bologna, per ogni richiesta scritta. E non esitate anche a contattarci sui social per qualsiasi ulteriore richiesta. Alla prossima! Ed è il momento dei saluti finali, ovviamente a seguire c'è la rubrica Oggi parliamo di dialoghi sulla cittadinanza, l'intervista a Carla Chiappini, giornalista, docente e collaboratrice della rivista Ristretti Orizzonti di Parma, di cui la direttrice è la stessa Ornella Favaro di cui vi abbiamo parlato inizio puntata. Seguiteci e scriveteci redazione Liberi Dentro @gmail.com e ovviamente un caro saluto da me, Antonella ed Enea Flacco. A domani. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.